Sezione diciannovesima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto diciannovesimo. Parea dinanzi a me con l'ali aperte la bella image che nel dolce frui liete faceva l'anime conserte. Parea ciascuna rubinetto in cui il raggio di sole ardesse, sì acceso che ne miei occhi rifrangesse lui. E quel che mi convien ritrar testeso non portò voce mai né scrisse inchiostro, né fu per fantasia giammai compreso. Ch'io vidi ed anche udii parlar lo rostro e sonar nella voce ed io e mio, quand'era nel concetto noi e nostro. E cominciò: per esser giusto e pio, son io qui esaltato a quella gloria che non si lascia vincere a disio. Ed in terra lasciai la mia memoria sì fatta che le genti lì malvagie commendan lei, ma non seguon la storia. Così un sol calor di molte brage si fa sentir, come di molti amori usciva solo un suon di quella image. Ond'io appresso, o perpetui fiori dell'eterna letizia, che pur uno parer mi fate tutti i vostri odori, solvetemi spirando il gran digiuno che longamente m'ha tenuto infame, non trovandolo in terra cibo alcuno. Ben so io che se in cielo altro reame la divina giustizia fa suo specchio, che il vostro non la prende con velame. Sapete come attento io m'apparecchio ad ascoltar, sapete qual è quello dubbio che m'è digiun cotanto vecchio. Quasi falcone ch'esce del cappello muove la testa e con l'ali s'applaude, voglia mostrando e facendosi bello, vid'io farsi quel segno che di laude della divina grazia era contesto con canti quai si sa chi lassù gaude. Poi cominciò: colui che volse il sesto allo stremo del mondo e dentro ad esso distinse tanto occulto e manifesto, non poteo suo valor si far impresso in tutto l'universo che il suo verbo non rimanesse in infinito eccesso. E ciò fa certo che il primo superbo, che fu la somma d'ogni creatura, per non aspettar lume cadde acerbo. E quinci appar, ch'ogni minor natura è corto ricettacolo a quel bene che non ha fine e sé con sé misura. Dunque, nostra veduta, che conviene essere alcun de raggi della mente di che tutte le cose sono ripiene, non può di sua natura esser possente tanto che suo principio non discerna molto di là da quel che gli è parvente. Però nella giustizia sempiterna la vista che riceve il vostro mondo com'occhio per lo mare entro s'interna, che, benché dalla proda veggia al fondo, in pelago non vede, e non di meno egli è, ma cela a lui l'esser profondo. Lume non è, se non vien dal sereno, che non si turba mai, anzi è tenebra, o d'ombra della carne o suo veleno. Assai temo aperta la latebra, che t'ascondeva la giustizia viva di che facei quistion cotanto crebra. Che tu dicevi? Un uom nasce alla riva dell'Indo e quivi non è chi ragioni di Cristo, né chi legga, né chi scriva, e tutti i suoi voleri ed atti buoni sono, quanto ragione umana vede, senza peccato in vita o in sermoni. Muore non battezzato e senza fede. Ov'è questa giustizia che il condanna? Ov'è la colpa sua se el non crede? Or, tu chi sei che vuoi sedere a scranna per giudicar da lungi mille miglia con la veduta corta d'una spanna? Certo, a colui che meco s'assottiglia, se la scrittura sovra voi non fosse, da dubitar sarebbe a maraviglia. O terreni animali, o menti grosse, la prima volontà, che per sé buona, da sé, che sommo ben, mai non si mosse. Cotanto è giusto quanto a lei consuona, nullo creato bene a sé la tira, ma essa radiando lui cagiona. Quale sovresso il nido si rigira, poiché pasciuti la cicogna e i figli, o come quel che pasto la rimira, cotal si fece, e sì levai li cigli. La benedetta immagine che l'ali movea sospinte da tanti consigli, roteando cantava e dicea: quali son le mie note a te che non le intendi? Tale il giudicio eterno a voi mortali. Poi si quetaro quei lucenti incendi dello Spirito Santo ancor nel segno che fe i romani al mondo reverendi. Esso ricominciò: a questo regno non salì mai chi non credette in Cristo, né pria né poi che il si chiavasse al legno. Ma vedi, molti gridan Cristo, Cristo, che saranno in giudizio assai men prope a lui che tal che non conobbe Cristo. E tai cristiani dannerà l'Etiope quando si partiranno i due collegi, l'uno in eterno ricco e l'altro in ope. Che potran dirli Persia ai vostri regi, come e vedranno quel volume aperto nel qual si scrivono tutti i suoi dispregi? Lì si vedrà tra l'opera d'Alberto quella che tosto muoverà la penna perché il regno di Praga fia deserto. Lì si vedrà il duol che sopra Senna induce, falseggiando la moneta, quel che morrà di colpo di cotenna. Lì si vedrà la superbia cassetta che fa lo scotto ed inghilese folle, sì, che non può soffrir dentro a sua meta. Vedrassi la lussuria e il viver molle di quel di Spagna e di quel di Buemme, che mai valor non conobbe né volle. Vedrassi al ciotto di Gerusalemme segnata con un I la sua bontade, quando il contrario segnerà un M. Vedrassi l'avarizia e la viltade di quel che guarda l'isola del fuoco, dove anch'ise finì la lunga etade, e a dare ad intendere quanto è poco la sua scrittura fien lettere mozze, che noteranno molto in parvo loco, e parranno a ciascun l'opere sozze del barba e del fratel, che tanto egregia nazione e due corone han fatto bozze. E quel di Portogallo e di Norvegia lì si conosceranno, e quel di Rascia, che male aggiustò il conio di Vinegia. O beata Ungheria, se non si lascia più malmenare, e beata Navarra, se s'armasse del monte che la fascia, e creder de ciascun che già per arra di questo Nicosia e Famagosta per la lor bestia si lamenti e garra, che dal fianco dell'altra non si scosta. Fine del canto 19.